388. Cavolfiore all'uso di Romagna. Dividete una grossa palla di cavolfiore, o due se sono piccole, in spicchiettini che laverete e così crudi, senza asciugarli, cuoceteli in questo modo. Ponete al fuoco un battuto proporzionato di aglio, prezzemolo e olio. E quando sarà rosolato, fermatelo con un gocciolo d'acqua. Gettateci allora il cavolfiore, condendolo con sale e pepe. E quando avrà assorbito il battuto, tiratelo a cottura mediante conserva di pomodoro sciolta nell'acqua calda. Dategli grazia e più sapore col parmigiano quando lo mandate in tavola, ove può servir per contorno all'esso, a un umido o ad un coteghino. 389. Sformato di cardoni. Regolatevi in tutto come per lo sformato di cavolfiore del numero 387. Tagliate il cardone a piccoli pezzi, onde vengano penetrati bene dal condimento. Prima di metterlo nello stampo, assaggiatelo.